Esatto, se noi sopportavamo tutte queste cose, ma aveva ragione Liliana che non mi rognava, che fumavo dentro un gas, tutte le tende impregnate di fumo e cose, mamma mia. Ho preso una salto subito a letto per sentire la voce. Ma avevo l'occasione comunque di andare lì nel corso, nel terrazzo, all'aria aperta. Lei andava nel terrazzo, ma lasciava la porta aperta dentro la budre tu gas. Quindi è inutile che tu vai nel terrazzo, da voi ma lascerai una bisa e senza dente così. E vabbè. Meno male che... E poi fumava come un turco, mi ha detto, una dopo l'altra ne fu. Provato anche a dire che non può smetterla, se vuole smetterla. Io gli ho detto che ho smesso e che mi trovo meglio. Cioè, dovrei smettere anche io. Dovrei, gli ho detto, dovrei non vuol dire nulla. Volere e potere, quello che è vero, mi ha detto. Certo, guarda, è difficilissimo. Diciamo, io non ci credo che uno ci possa riuscire. Siamo riusciti noi, siamo riusciti anche bene. Penso. No, non è difficile. Abbiamo un pochettino tempestato, però l'abbiamo fatto noi. Quindi penso che no, non ci sia nulla di difficile. Perché io per il palo fumavamo un bene. Antenamenti, una dopo l'altra, sempre che si sigarette, sempre con la baralogna di non averle, te le compro per due pacchetti perché per paura di finire la domenica, poi sempre con questi bei segni. Ma ha detto pure io, adesso moriamo anche alla fumaria sempre a pesca. Poi io arrivavo pure a sentirmi strano, con un vuoto allo stomaco alla fine perché fumavo troppo. Io mi sono preso il filmato in testa, voglio via, lascia questo. Tosse. Giulia. Ma adesso grazie a Dio sto bene, ho messo qualche chilo, ma già si può sapere rimediare. Io il mio crimine è normale, Anto. Normale per chi non fuma più, perché la sigaretta ti fa passare anche la voglia di mangiare. Ma fa molto male ad altre cose. Il dottore mi ha detto che ho fatto un grande passo. Dove? Sì, mi ha detto che ho fatto un grande passo perché anche che praticamente il fumo associato al diabete eccetera eccetera fa venire malattie cardiovascolari, infarti, ictus eccetera eccetera. Sì, che uno la cosa, la probabilità è minima, ma quando comincia ad essere due si associano, allora la possibilità duplica. Così, ma conviene, già conviene oramai che ci siamo riusciti, conviene chiudere la pagina, no, e non comprarne mai più, non manco a vedere. Ma dico, parlarne fa bene, perché parlarne ti fa sentire come un vincitore, dai, come se tu ne possa parlare senza averne la voglia, capito? Senza avere il problema magari che ti rivenga la voglia. Io ne parlo tranquillamente così, ma non... A me per farmi venire, diciamo, per ritornare a sbagliare dovrei avere qualche cosa che mi innervosisce al punto tale da non poterne farne a meno, perché sembra che la sigaretta ti dia, sembra, perché non è così, ti dia un aiuto magari quando c'hai problemi, quando sei nervoso, che ti rilassi. Una persona quando non è nata con la sigaretta, quindi secondo me per... No, ho visto una cosa anche per te, io sono molto contento di esserti riuscito. È una persona che deve tornare come quando era bambino, cioè deve apprendere tutte le mansioni. Ho tutto. E prima fumava, quello che fumava, non può essere il comunitario. E purtroppo io ando da piccolo. Purtroppo dico da piccolo perché allora vendevano le sigarette sfuse e io con i piccoli spiccioli che mi dava magari facevo una commissione, mi davano la mancia e cose. E per dire, c'era una signora che non usciva mai da casa e mi diceva già ci va a comprarmi le sigarette, andavo e mi dava qualche spicciolo, io andavo e mi compravo quelle le due sigarette e fumavo di nascosto, andavamo nei cantini e fumavamo di nascosto come se stessimo rubando. Chiaro. No, vabbè, però è una cosa bella parlare con me, tutto perché anch'io sono molto fiero di quello che ho fatto. Sono contentissimo, però è un capitolo chiuso oramai, penso di non ritornarci mai più e me ne faccio, non so neanche se è saporeabile, ti dico la verità, è proprio l'ho dimenticata. Lo so, anche io è così per me, però mai dire mai, io mi auguro, io dico mi auguro di non riprendere perché sono stato 5 anni che non fumavo e poi ho ripreso da, scusami la frase, ma ho ripreso dopo 5 anni, ma cioè, c'era il motivo, cose, magari anche quello, c'era un po' di crisi al lavoro e quindi ero un po' nervoso e cose, quindi anche per quello, poi c'è passato tutto. Certo, ho già detto una cosa, non è quello che aiuta, che tu ti può fare lo più sano, perché se per esempio uno perde un lavaggio e si comincia già a fumare, si va a destinare, va a destinare, e parla. Che ti manda proprio fuori strada, capito? Lo so, ma molte volte si crede che magari, per dire, io quando facevo strade lunghe mi accendevo una sigaretta e sembrava che mi aiutasse, che mi desse relax. Sì, no. Bisogna lasciarle perdere, basta. Come che non esistava più? Non so proprio. Io non le ho fumato manco a Natale, che di solito fumo il cigarro. Un amico mio è andato fuori, mi ha portato un sigaro, un toscano di quelli belli, mi ha detto ho fumato la mia salute a Capodanno, non gli ho toccato, l'ho lasciato lì. Giusto, me l'avrebbe detto a me, l'avrebbe detto guarda, con tutto rispetto, tira della mano in quel baracco. Ma quello no, il regalo lo accetti a tutti. Perché è un regalo, però diciamo che lo puoi tenere anche come soprammobile, no? Che scappa, e vabbè, ma non è piacere il regalo, ma magari tu non lo sapevo. No, è attivo. Mi ha regalato dentro la custodia tutta in alluminio, fatta bene, tutta disegnata, un bel bellino. Oh, un annetto mi è passato, lo sai? Ancora no. Sì, già. Avevamo smesso d'estate, anche tu? L'anno scorso. Sì, un annetto che ci siamo. Quasi. A giugno abbiamo smesso. Ragazzi, ho dimenticato questa mente la razza, se puoi immaginare. In giugno mi pare che fosse, in giugno abbiamo smesso. Ho dimenticato anche la razza. Comunque già siamo stati abbastanza coglienti con quello che abbiamo deciso, forse perché chi fumava doveva pagare la cena. La pagata. No. Non mi interessa più, non mi interessa più e se si inizia così. È proprio un capitolo chiuso oramai, tutto la sigaretta non interessa più, stato lampato di là e basta, la sua regalata ai simagnati. Quello cervello, lampade in fumo, come diceva mio padre, sono soldi buttati in fumo, bruciati. Vabbè, ammagnati se si buttarono. Ma sono bruciati proprio, non so se la parola, Antonio, buttati in fumo davvero. Mi sta dando un tabacchino, me l'ha chiesto, perché io vado a Giaugiai, a gioco, lo faccio io. Recupero bene, che strano. Ja te rozumiem, ty si ma odsúvale, ty ma aj mi rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma aj rozumiem, ty ma e quando mi ero vato mi avete fatto ma non l'ha mai un'abitudine oppure con un concerto che mi avete aiuto e quindi gratuito. Beh, certo che è un bene, ma qua non ti ribiglia un asso di video di giocare che si macchiati di cacca che hai fatto diventare niente bovara la ricca ghiera l'hai fatto diventare bovara che si macchiati. Parole, ma no, e gli altri piglia la mano, lo fate chi su, ma niente che magari, a me uno mi ha detto che questo qua stava giocando, ci ha giocato tutto lo stipendio, ma l'ha vinto un cacchio, ha mandato la moglie, ha chiamato la moglie di arrecare di là, si è andato a ricciarsi, tra le due si è messo pure isso. Poi dice che è arrivato uno, ha messo 2 euro e si è fatto tutti i dirà che ha messo l'isso. Sto mappo, ma manca davvero, ma sai che io in 2 giorni ne ho fatto 200 euro. In 2 dirmi. Cioè, allora, molta gente anche perde, perché non si sa neanche giocare, ignorante, macabra. Cioè, non sai niente che tu dai così, non si sa niente, ma poi anche quando tu li vedi, dopo già in tuo gambe la macchinetta, no? Quelle 10 euro, non se ne tolgono nemmeno, perché sono ignorante. E se mi dai a giocare, cosa devi fare? Perché io non ci ho mai giocato tanto, ma non penso che sia così difficile a giocare, no? Se sei fortunato ti esce la figura, se non sei fortunato mezzi. No, io sì, no, bisogna sapere che ci sta con la macchinetta. Vedenti, per esempio, una cosa sbagliatissima. C'è gente che viene, che fa 25 centesimi. Tu se tu giochi a 25 centesimi, è una cosa sbagliatissima. Dice per far la salire, no, non tu non fai salire niente. E magari se sei un buono, tu non stai giocando a 50 centesimi. E se la qui dove non può fare il pole, è capito? Io ho visitato, non ci ho mai giocato e mai ci proverò, perché queste cose poi prendono la mano, vedi Pupo è diventato da ricco che era sfondato, è diventato un pezzo di cose, se non avessero sollevato quelli dello spettacolo che l'hanno aiutato, tipo Gianni Morandi che l'ha aiutato a pagare i numeri di limiti, eccetera eccetera, allora si sarebbe più sollevato. Ciao. Ma io ti dico una cosa, che tu se sai giocare non perdi mai i soldi. È solo quello, la gente perché vuole troppo vuole. Per esempio non si accontenta di guadagnare quelle di togliersi quelle 50 euro, quelle 20 euro, perché tanto lo capisci che tu andando oltre non va oltre, quindi no. Bisogna pure comprenderla, ma non è così. Cinesimo la sorte trovano il modo di giocare, mi chiamo, io funziono, ti fanno gli altri mattoncini. Io mi sono fatto sul coso, come si chiama? Vabbè, comunque giocano col telefonino, li hanno sgamati, li hanno fatti filmati, li hanno arrestati. Due cinesi andavano col telefonino, loro l'avevano manipolato per entrare nel gioco, pur buttava nel coso, cliccava questo tasto, blibli blibli blibli blibli blibli blibli, che fava lì. E sopra la macchina, la porta sotto la palla, no? Io. Hanno cambiato il... come si chiama? Bah, non mi viene adesso. L'hanno manipolato, quello del telefono, hanno fatto sì che riuscisse a fare anche... E quando li hanno arrestati li hanno trovato più di 1500 euro fatti da altri bar, eccetera. Andavano sempre insieme, hanno fatto vedere alle telecamere cosa facevano. Uno giocava, l'altro ritirava i soldi che cadevano. Avevano una sacchettina per ritirare i soldi addirittura. Sono troppo. Oh, io ti do, guarda, non li voglio, non li vuole nessuno nel locale, se li mandano proprio. E perché ci fanno questi lavori? Allora, vedete le connotte. E hanno, quanto ho capito io, hanno un po' temperato. No, dice che funzionava con il microchip, non so che cosa, hanno messo un questo microchip che riusciva a sballare le macchine. Già lo so. Io sono gente intelligente. C'ero riuscito pure io a capire. Però non mi ero mai filmato nel mondo. Cioè, no, quando fai quelle cose non devi essere abituato. Devi andare, per esempio, via Roma, devi andare in altre porte. Via Centro, devi andare in altre porte. E se ci si è abituato, facciamo i due. Comunque, loro già stavano con questo telefonino che avevano arbeggiato loro prima. E solo quando cliccavano loro si sballava la macchietta, poi si riprendeva normalmente. Si girava tutti i locali della zona, comunque Antonio, hanno trovato 1500 euro in tasca. Si pare adesso. Secondo cosa fare, secondo come si sbaglia. Se ne sono tutti di dinare, non lo possiamo più la macchinetta, lo so. E adesso? È un casino. Molte volte quando paga e continua a dare, se lo segue una minaccia, quando non c'è più momento per pagarsi, dopo quando arriva il manutentore, cioè quello, il gestore del bar, si deve dare, lo sai. Allora la legge è questa qua, il gestore del bar non ti deve dare i soldi, tu devi dare i soldi e loro se li danno in roba da bere. Non è assolutamente così. Quando te dice no, le monete sono le tue, non è giusto. È come dici tu. Io ti sto spiegando una cosa. Quando la macchina può arrivare anche a 1000 euro, quale fare. Però se non c'ha, se arrivano 300 euro, non c'è quelle 100 euro per pagarsi. Ma la macchinetta ti segna. Tu, dopo quando arriva il manutentore, che è quello della merda, e di 200 euro li deve dare, ci sono le tasse e poi li si dà, hai capito? Beh, comunque, io ho visto gente che prende i soldi, gli spiegano, ma li cambia per favore, lui li cambia e non è così che dovrebbe funzionare, quello è il gioco d'azzardo, niente, lo sai, quello è il gioco d'azzardo autorizzato. Se tutti gli adulti sono i tuoi, non può essere di altre persone. Tu se per cosa di cosa funziona una ora. In certe ore deve scaricare la macchina, deve vincere. Questo fatto che vincano così facilmente non è giusto. E poi anche le macchinette sono dei giochi d'azzardo, sempre. I giochi d'azzardo sono, e la legge punisce chi gioca con i giochi d'azzardo. Oh, veramente sono, non punisce proprio nulla, perché è un gioco sicuro e un gioco fatto dalla legge. Più di 2 euro non ce li puoi mettere, e noi consiglio, noi consiglio come tirare intorno. E quanto puoi vincere? Da 1000 euro puoi vincere, se sei sicuro. Troppi soldi sono, anzi, quel gioco d'azzardo a tutti gli effetti. Farò così anche io, quando vinto. Ma però non ti svegliare che ti dice strane, cioè, poi che ti va a 15 euro non devi andare, se no sei buttito. Massimo qualcuno 10, massimo, deve essere come un normale grande giro. Di miliardari o cose. Ma quanto là, si è fatto tardi. Ti saluto là che è già tardi, me ne vado tutto quanto a nonna. Ciao ciao, buonanotte, buona giornata per domani. Allora, buonanotte e buona giornata per te. Ciao.